In questo mercoledì 11 aprile le aperture per la verità sono dedicate soprattutto alla situazione delicata dello spread in Italia dopo anche il crollo delle borse. Borsa sotto attacco, spread a 404, così titola il Sole 24 Ore e il Corriere della Sera: torna la minaccia dello spread. Per Repubblica, crolla la borsa, paura per lo spread. Il Messaggero, crolla la borsa, vola lo spread. Come vedete, molti quotidiani aprono su questo. L'altro tema è proprio la Lega. Per Libero, Maroni si prende la Lega. La Stampa, nasce la Lega di Maroni, risorgeremo. Il Giornale, Maroni sfila la Lega a Bossi. Questo è un po' il tema per molti, cioè Maroni, che è diventato quasi per acclamazione già il nuovo leader leghista. Pianto padano per il Quotidiano Nazionale, mentre il Fatto Quotidiano: ma questi chi li caccia? E mette la foto di persone come il presidente della Sicilia Lombardo, Filippo Penati, Davide Boni, leghista, o Ugo Cappellacci, presidente della Sardegna. Per l'Unità invece, indietro tutta la minaccia dello spread, e anche il Manifesto, il fondo del barile. Mentre apre sulla Siria, sguardo internazionale, Avvenire: Siria, stragi di verità, finta tregua di Assad, testimonianze contro i ribelli. Allora, dicevamo, noi parleremo del finanziamento ai partiti, ma c'è un aspetto che è emerso dai giornali, che poi uno va a vedere e dice: oh mamma mia, la casta ci riprova un'altra volta. Allora, mentre si discute del finanziamento ai partiti, di come rendere più trasparenti i conti, qualcuno potrebbe anche dire di come ridurre i soldi, questo pare di no, i soldi ai partiti. Ma mentre si discute di tutto questo, che cosa rispunta nelle pieghe delle leggi parlamentari? La cosiddetta legge Mancia. La legge Mancia, così soprannominata, è quella legge che dà la possibilità di redistribuire un po' di fondi, un po' di soldi che altrimenti andrebbero persi nel bilancio dello Stato e delle Camere, del Parlamento, ai collegi dei parlamentari. Per cui un parlamentare decide di destinarlo alla parrocchia del suo paese, quest'altro parlamentare all'associazione sportiva del suo paese, un terzo parlamentare alla bocciofila del paese vicino o alla saga della salsiccia del paese accanto. Insomma, spunta la famigerata legge Mancia. Così a pagina 16 del Corriere della Sera rispunta la legge Mancia. Ma anche il Secolo XIX ci fa una pagina: taglia i partiti, sì, con la Mancia. A Montecitorio rispunta la legge che regala 140 milioni di euro per i collegi dei parlamentari. Ora c'è una mezza rivolta, nel senso che si rendono conto i partiti che così forse è un po' troppo, si sta tirando la corda. E allora, per esempio, dall'UDC l'onorevole Galletti dà lo stop: no, questa proposta adesso, in questo momento, è lunare per i cittadini. Dobbiamo assolutamente fermare questo tipo di legge, questa volta non ci stiamo. È una norma, ripeto, che consente ai partiti di assicurare finanziamenti a pioggia a enti e istituti scelti dai parlamentari in base ai collegi dove sono stati eletti. 140 milioni. Ora, si è chiesto ai partiti, e ci sarà ospite nostro alle 8.30 Antonio Polito, che ieri sul Corriere della Sera ha chiesto ai partiti: rinunciate alla tranche che vi sta per arrivare, dell'ultima tranche del finanziamento ai partiti di questa legislatura. Ora si aggiungono anche questi 140 milioni da parte della legge Mancia. Vedete un po' voi, cari partiti, cari esponenti dei partiti, guardatevi allo specchio questa mattina quando vi alzate e decidete che fare, se si può fare qualcosa, se si possono dirottare questi 140 milioni, grazie, da qualche altra parte. Poi decidete ovviamente con l'autonomia che è vostra, e poi i cittadini anche decideranno di conseguenza. La seconda notizia da cui che vi voglio segnalare prima della pubblicità è questa, riguarda un cardinale. Sia Repubblica sia Il Fatto Quotidiano fanno una pagina, per la verità riprendono una testata locale, Savona News: il cardinale Rambo che imbarazza il Vaticano. Questo è il titolo di Repubblica, pagina 19, mentre il Fatto Quotidiano titola a pagina 11: Monsignor Mitra, la passione del cardinale per le armi. Insomma, è la vicenda del neocardinale Domenico Calcagno, ex vescovo di Savona, che a casa sua, per carità, custodite privatamente, lui dice in un armadio, chiuso a chiave, ha un arsenale vero e proprio, un arsenale tanto che è soprannominato appunto Monsignor Rambo, così scrive Marco Preve su Repubblica, pagina 19, più che Monsignore è diventato cardinale, quindi sua eminenza Rambo. Sentite che cosa nella sua casa. Una Smith & Wesson calibro 357, come l'ispettore Callaghan, roba da pistoleri, oppure una carabina di precisione per caccia grossa Remington 7400 calibro 30.06, o ancora un micidiale fucile a pompa costruito in Turchia, Lazan, modello Escort. Io non sono avvezzo, ma insomma leggo così, semiautomatico di fabbricazione turca. E anche per il Fatto Quotidiano è Monsignor Mitra, lui dice: ma andavo prima al poligono di tiro, ho da sempre la tessera che mi permette questo, da quando sono in Vaticano però come cardinale ho dovuto smettere, non vedo perché debba interessare questa vicenda privata mia, le armi sono tutte custodite sotto chiave in un armadio a casa mia. Sta di fatto che insomma questa notizia raccoglie l'interesse di alcuni giornali. Monsignor mio, e poi ripeto, monsignore quando era vescovo, insomma bisogna anche essere informati sulle cose del Vaticano. Sua eminenza Mitra, cardinal Rambo, così soprannominato Domenico Calcagno, neo cardinale. E mentre ovviamente si discute di Lega, si discute di finanziamenti al partiti, che succede? Che lo spread aumenta. Ci svegliamo questa mattina, ieri dopo una giornata di borsa con il crollo della borsa, a scoprire che il tormentone spread, o comunque il mostro spread, è tornato a fare paura. Borse sotto attacco, spread a 404, questo è il titolo d'apertura del Sole 24 Ore. Piazza Affari ieri ha perso il 5%, quindi le borse in forte calo. Ovviamente timori che hanno affondato i listini, Milano proprio maglia nera, male, molto male le banche, e lo spread appunto che è salito a 404. Allora, tutti i dettagli sono raccontati da Moria Longo a pagina 3 di questa giornata, una giornata difficile dal punto di vista finanziario sulle borse italiane e internazionali, e a pagina 2 invece Vittorio Carlini racconta proprio il crollo della borsa di Milano al 4,98% e la giornata difficile su tutte le piazze europee. Certo, c'è da dire che fanno discutere le parole del Premier Mario Monti, che dal Cairo viene definito sul Corriere della Sera, pagina 5, arrabbiatissimo. Così inizia l'articolo di Andrea Garibaldi. Arrabbiato, anzi arrabbiatissimo per i dati economici, certo, lo spread che supera 400, soprattutto per la caduta rovinosa della borsa. E Mario Monti, così titola il Corriere della Sera, pagina 5, individua anche le responsabilità che sono esogene, vale a dire quello che sta succedendo in Spagna, la crisi spagnola, e poi se la prende con il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. Su quella situazione può aver influito Emma Marcegaglia con la sua volontà di ridiscutere la riforma del lavoro. Fino a pochi giorni fa, ha detto Monti, tutto era a posto. Poi Marcegaglia ha cambiato atteggiamento criticando il governo sul Wall Street Journal, sul Financial Times, sul Corriere, diceva Monti ai collaboratori nella sua ultima giornata al Cairo, e anche sull'aereo verso Roma. E ancora parole che provengono dall'entourage di Monti, un gioco al massacro, perché gli industriali sanno bene che noi sulla riforma del lavoro non possiamo tornare indietro e ci giochiamo tutto. Perché lo fanno? Insomma, questo è dato in un retroscena a un Monti molto molto arrabbiato, proprio nel giorno in cui Emma Marcegaglia, tra l'altro, è tornata a criticare la riforma del mercato del lavoro. A pagina 11 del Sole 24 Ore, il resoconto di Nicoletta Picchio, con questa riforma meno occupati, questo è il titolo dell'articolo, Marcegaglia ha invitato a rivedere soprattutto la flessibilità in entrata e a ridurre la pressione fiscale. Ci condannerebbero questo a uno scenario dove cresceremo sempre meno, avremo meno occupazione, daremo sempre meno speranza ai giovani, con un paese che si piega su se stesso. così ha detto Emma Marcegaglia, ieri parlava Rovigo. Dunque, insomma, su questo continua il braccio di ferro verbale su quella che è una riforma importante. C'è da dire che ad Armanforte, in questo caso la leader degli industriali, ci pensa anche il Popolo della Libertà, così almeno va interpretata la lettera che l'ex ministro del welfare Sacconi fa e viene pubblicata a pagina 8 dal Corriere della Sera, e definisce Sacconi la riforma deludente, un passo indietro dopo 15 anni, parole dure da parte di Sacconi che racconta di questo testo sulla riforma del mercato del lavoro, un testo che trasuda in ogni sua parte, anche quando vorrebbe favorire le imprese nelle sue esigenze organizzative o capacità formative, diffidenza e ostilità verso i datori di lavoro. Si assumono a riferimento comportamenti patologici, anche estremi, si impongono in conseguenza vincoli, adempimenti, sanzioni, oneri, con una implicita minaccia di intense ispezioni formalistiche. La stessa modifica dell'articolo 18 non determina da sola una, per quanto timida, giusta direzione di marcia. Diventerebbe in questi termini il primo provvedimento dal saldo regressivo dopo 15 anni positivamente segnati dalla volontà di liberare l'impresa dalla atavica inibizione ad assumere. Insomma, un Sacconi che poi invita il governo Monti a dire: rivedete questa riforma e accettate le modifiche che sono auspicabili in Parlamento. Dunque, su questo tema, come vedete, continua il braccio di ferro, continua la tensione. C'è da dire che in prima pagina del Corriere della Sera anche i due professori Alberto Alesina e Francesco Giavazzi, due economisti, tornano un po' a criticare il governo Monti. Ora date un taglio alle troppe spese, questo è il titolo dell'editoriale. Prima un'analisi dei dati sul reddito che si è contratto dello 0,7%, la spesa delle famiglie che è scesa di oltre un punto, il rischio che il prodotto interno lordo scenderà. A tutte queste cose come reagirà il governo Monti? La risposta più semplice: non far nulla, è anche quella sbagliata, dicono Alesina e Giavazzi. E allora che cosa si può fare? Un'alternativa sarebbe stata dare un impulso alla crescita, cosa non facile, ma la riforma del mercato del lavoro, così come concepita originariamente, andava nella direzione giusta, ma ha perso efficacia prima ancora di approdare in Parlamento, e probabilmente ne uscirà, se uscirà, ulteriormente annacquata, come è accaduto ai provvedimenti sulle liberalizzazioni. L'unica carta che rimane da giocare per il governo Monti, scrivono Alesina e Giavazzi, è quella della cosiddetta spending review, cioè l'analisi una per una delle spese dell'amministrazione pubblica per decidere dove si può tagliare. Dunque, il taglio alla spesa pubblica. Intanto il ministro Elsa Fornero, che da qualche giorno è un po' defilata anche nelle dichiarazioni, oggi prende carta e penna e risponde con una lettera che viene pubblicata dal Giornale. Ieri il Giornale aveva pubblicato una sorta di appello, di lettera da parte di giovani che chiedevano al ministro Fornero, invece di toccare le pensioni degli italiani, forse era meglio toccare le pensioni d'oro, quelle dei parlamentari, vitalizi, eccetera. Oggi Elsa Fornero risponde: cari ragazzi, sulle pensioni lotto per voi. Questo è il titolo del Giornale a pagina 13. Scrive il ministro del welfare: non basta una bacchetta magica per risolvere i problemi, meno che mai quelli che nascono dal perpetuarsi di privilegi. Le pensioni di Camera e Senato sono uguali alle altre già dal 1 gennaio 2012. Altri ambiti si sono rivelati meno disponibili. Il ministro del lavoro non può far altro che sollecitarli a rivedere il loro sistema pensionistico. Poi si rivolge ai ragazzi che hanno scritto al giornale: caro Francesco, ha ragione tuo fratello grande a dirti che la pensione è un assegno che lo Stato versa ogni mese a chi è troppo vecchio per lavorare e come premio per aver faticato tutta la vita. Ma il problema è proprio qui. Per troppo tempo la pensione è stata data non a chi era in quella condizione, ma a chi, per qualche motivo, che non è questa la sede per ricordare, aveva ottenuto quel privilegio. Anche per questo le vostre riflessioni sono per me motivo di stimolo, ulteriore incoraggiamento a non rinunciare. Vi garantisco il massimo impegno perché le ineguaglianze vengano superate con l'idea di contribuire a disegnare un futuro migliore per i giovani. Un caro saluto, ministro del welfare Fornero. Vabbè, questo è il tema economico, riforma del mercato del lavoro. L'altro grande tema sui giornali è la Lega. Lo psicodramma, si può utilizzare questo termine senza ombra di smentita, che si è tenuto ieri tra Bergamo. Beh, Bossi che ha chiesto scusa, Bossi che ha pianto, scusa perché i problemi sono arrivati da gente che porta il mio cognome. Con questo scrive Repubblica, definitivamente seppellito, se possiamo dire così, figurativamente, suo figlio Renzo Bossi, che nel frattempo si era dimesso dalla regione. E poi il pianto di Rosi Mauro, che è andato nel salotto di Porta a Porta da Vespa e dice non mi dimetto, e si è messa a piangere, la prima volta che dico no a Bossi. Maroni che dice la dimetteremo noi, la cacceremo, così finalmente il sindacato padano diventa padano davvero, come dire lei è una terrona, parliamoci francamente, è pugliese di origine. Devo dire che però tra i tanti articoli sulla Lega, lo scoop lo fa il secolo XIX, perché ci sono le prime dichiarazioni, la prima intervista dell'ex tesoriere Belsito, che è di Genova, e dunque Marco Menduni del secolo, lo trovate a pagina 6, va a trovarlo dove a casa, gli fa la posta, proprio lo aspetta sul pianerottolo di casa, via Fiasella, dove abita Belsito, ci appostiamo, sentiamo, nonostante la moglie non risponda al citofono, sentiamo l'ascensore che sale, eccolo qui, si apre la porta. Francesco Belsito subito con la mano fa un gesto come dire no, no, no, per carità. Poi però dice qualcosa, si figuri se non avrei voglia di parlare, dice Belsito, di spiegare tutto, ma c'è il lavoro delle procure, ho l'ordine di non aprire bocca. Parlare in questo momento non ha senso. Per tutti Belsito è il diavolo, parla di sé in terza persona. In questo momento mi tengo la croce e la porto. Nel frattempo preparo tutto quello che potrà essere utile alla mia difesa. Spero che almeno mi daranno atto di essere stato un buon amministratore. Lei a botta calda aveva detto io non ho male agito, non ho male agito. Lo ripeto e lo confermo, sono assolutamente convinto di non aver agito male. Ero un contabile, un amministratore di beni, non ho mai agito per i fatti miei. Nel partito molte persone sapevano quel che facevo. Questa è una frase, la frase cruciale dell'intervista. Poi a un certo punto, come sto vivendo? Beh, la mia vita è tutta qui, non esiste più nient'altro, da casa allo studio dell'avvocato, per capire. A un certo punto l'intervista è bruscamente interrotta da una voce perentoria dall'interno dell'abitazione, voce femminile che dice chiudi la porta, smettila di parlare con quelli lì, cioè coi giornalisti. E Belsito dice vabbè, devo entrare. Intanto, tra Bergamo e Porta a Porta, gli studi di Porta a Porta, appunto, si è consumato lo psicodramma della Lega, dopo il traffico. Si ricomincia con tanto di punto esclamativo, così titola La Padania, l'organo della Lega, con la foto di Maroni e Bossi che si stringono la mano, si abbracciano. Beh, ieri in realtà si è consumato questo psicodramma, nel senso che i leghisti si sono ritrovati per fare pulizia, le scope insomma diventeranno un nuovo simbolo di questa rinascita della Lega, di questo cambiamento della Lega. Si è chiusa di fatto un'epoca, perché quando Bossi in lacrime ha chiesto scusa perché i guai sono arrivati da gente che porta il mio cognome, beh, insomma, è proprio il tramonto di un'era della Lega di Bossi. E poi però c'è anche l'acclamazione per Maroni, l'unico che ieri ha parlato di fatto, e tutti hanno fatto notare che per esempio Calderoli non è intervenuto, ed è un fatto abbastanza strano per le manifestazioni leghiste, come non è la prima volta in assoluto da due decenni che Umberto Bossi non fosse il punto centrale di questa manifestazione leghista. Tra i vari articoli che potete trovare sulla Lega, tanti resoconti, beh, tanto c'è la foto di Rosi Mauro proprio in lacrime, riprodotta dagli studi di Porta a Porta. Rosi Mauro che dice non lascio, ma Maroni ha fatto sapere, lo abbiamo sentito anche in audio nel giornale radio, non lascia Rosi Mauro e la faremo in modo che lasci. Ci sono tanti resoconti, per esempio Repubblica racconta di un retroscena in cui Bossi anzi no, il Corriere della Sera per la verità, che racconta questo retroscena, l'ultima chiamata di Bossi proprio a Rosi Mauro: non andare in TV a dire cazzate, gli avrebbe detto il capo, non ci andare, anzi fammi il favore, dimettiti. Ma la Badante, come ormai soprannominata, è stato appiccicato questo nomignolo, la Badante, a quel punto ormai aveva deciso la linea della resistenza disperata e ha detto no, ed è la prima volta per sua stessa missione che dice no al capo, a Bossi. Non vedo perché io mi debba dimettere. Invece fanno discussione le dimissioni di Renzo Bossi. Il Trota ieri si è presentato, tra l'altro racconta il Corriere della Sera, pagina 13, con Claudio Del Frate, senza timore di finire nuovamente nel trituratore delle ironie. Si è presentato con la stessa BMW X5 color argento, proprio quella finita sui verbali dell'inchiesta che lo ha travolto, parcheggiata lì al Pirellone, sede della Regione Lombardia. È entrato con la fidanzata, ha fatto degli scatoloni, ha parlato un po' con il capogruppo della Lega in Regione e poi è andato via. E anche qui bisogna, insomma, fare un corso accelerato sulle dichiarazioni da rilasciare e da non rilasciare al momento, in un momento del genere, a meno che uno dell'ironia di Twitter, di Facebook, della rete, dei detrattori non gliene frega niente. Ma con tutte le polemiche sul presunto diploma comprato, preso in maniera strana, non si sa in Svizzera, non si sa bene dove, da Renzo Bossi, secondo voi la fidanzata doveva dichiarare questo? Ora da che cosa comincerà la sua vita? Comincerà dallo studio. Detto senza ironia, si intende. Beh, insomma, l'addio di Renzo alla Regione, ora mi rimetto a studiare. Molti ironizzano, più che altro ora mi metto a studiare, più che mi rimetto. Comunque, sta di fatto che questa è la fine della breve parabola politica per il momento di Renzo Bossi. Che questo ve lo dico perché magari farà un po' scalpore, o non lo so, avrà una liquidazione di fine mandato di 40.000 euro dalla Regione. È stato quindi un anno, due anni in Regione, 40.000 euro come trattamento di fine, un TFR, il TFR della politica, reinserimento nel mercato del lavoro, 40.000 euro dalla Regione Lombardia, la liquidazione per Renzo Bossi, ma non avrà il vitalizio perché non è rimasto almeno, credo, 30 mesi in attività come consigliere regionale. Dunque si deve accontentare di 40.000 euro dalla Regione come TFR. C'è molto anche di pagine sull'inchiesta. La notizia più curiosa, se volete, anche che regala più colore, è quella del fatto che la Tanzania avrebbe rifiutato 4,5 milioni di soldi della Lega. Insomma, anche qui si sprecano le ironie dopo che da qualche giorno si era saputo della presunta banca svizzera che avrebbe rifiutato i presunti soldi di Emilio Fede. Ora ci sono, si può aggiungere anche questa, una banca della Tanzania, tale FBME Bank LTD, filiale della Federal Bank of Lebanon, che avrebbe rifiutato in Tanzania soldi 4,5 milioni della Lega. Come dire, quei soldi lì non ci piacciono, in Tanzania hanno detto, quei soldi lì della Lega non ci piacciono, tanto che il Fatto Quotidiano ironizza così: i soldi della Lega neanche l'Africa si fida, la Tanzania respinge 4,5 milioni che Belsito voleva far fruttare. Questo è l'articolo di Gianni Barbacetto che trovate a pagina 5. C'è spazio per chiudere con che cosa? Parleremo di finanziamento ai partiti, eccetera, c'erano altre segnalazioni, ma voglio chiudere con un sorriso che viene dalla Gazzetta dello Sport, e non è l'inutile titolo per gli illusi: il Milan si tira su, ma insomma il campionato da mesi, come vi ho detto, da mesi ormai, della Juventus. Il rompipallone di Gene Gnocchi: nuovi segnali di un possibile ritorno di Balotelli a Milano. Ieri il sindaco Pisapia ha indetto un concorso per 200 nuovi vigili urbani. Ci fermiamo per il giornale radio.